TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Approvata a notte fonda la finanziaria con 28 voti favorevoli, 18 contrari e 1 astenuto. Dei 6 miliardi e mezzo, oltre la metà sono destinati alla salute, politiche sociali e disabilità. La maggioranza è molto orgogliosa del bonus mamma, mentre le opposizioni criticano il documento per il poco coraggio rispetto alle risorse disponibili. A Cormons, lutto cittadino nella giornata in cui saranno celebrati i funerali di Guerin Shkozai e Kvirin Kunhelt, le due vittime della frana di Brazzano avvenute il 17 novembre scorso. Per l'ospedale di Spilimbergo c'è una formale manifestazione di interesse da parte di un investitore. Se ci sarà un parere non ostativo di ASFO, la decisione passerà al Consiglio regionale, quindi un bando europeo. Le riabilitazioni dei pazienti presso il Gervasutta danno risultati migliori grazie all'impegno delle associazioni che collaborano con la struttura sanitaria. In arrivo per il porto di Monfalcone due maxi gru che solleveranno fino a 1600 tonnellate progettate e costruite dalla Cimolai. A Lignano le videocamere di sorveglianza saranno addestrate dall'Università di Udine a riconoscere comportamenti sospetti quali scippi, risse e aggressioni. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi. In apertura alla politica, con l'approvazione della manovra finanziaria del Friuli Venezia Giulia, è stata approvata nella notte con 28 voti favorevoli della maggioranza, compatta 18 i contrari delle opposizioni, si è astenuto il consigliere della Slovenska Skupnost. Ma sentiamo i dettagli. Il Consiglio regionale ha approvato la manovra finanziaria 2026 che segna un nuovo record e con un bilancio di 6 miliardi e mezzo di euro, con la quota più consistente, pari a 3 miliardi e 720 milioni, destinata al comparto salute. La manovra è stata approvata alle 3 di notte dopo 4 giornate di lavori d'aula, con 28 voti a favore, 18 contrari e un astenuto. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato come la manovra rafforzi tutte le misure avviate in questi anni, dal sostegno alla famiglia ai trasporti, dalle infrastrutture alla sanità. È una legge molto importante che continua a garantire al Friuli Venezia Giulia e ai cittadini di questa regione ingenti risorse e al contempo anche una stabilità economica, anche questo in prospettiva molto importante, perché Moody's ci certifica quale regione migliore d'Italia insieme alla Lombardia per quanto riguarda la stabilità dei conti. La stabilità dei conti vuol dire, significa garanzie per i cittadini. Tra le misure per la sanità è importante l'investimento sul capitale umano, come l'integrazione delle borse dei medici di medicina generale in formazione e i premi di studio per chi decide di iscriversi ai corsi di laurea infermieristici in Friuli Venezia Giulia. Incrementate anche di 8 volte le risorse per la famiglia, dove compare una misura che rappresenta un unicum in Europa, il contributo a fondo perduto fino a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa per le donne con meno di 30 anni, purché intestata o cointestata alla giovane mamma, per favorirne l'autonomia economica. Dall'opposizione, per il capogruppo PD Moretti, una critica di fondo alla manovra. Una finanziaria, a nostro parere, che nonostante le grandi risorse, dà troppi finanziamenti a pioggia e comunque non affronta quelle che sono le urgenze, che sono il recupero della competitività della nostra regione e quella che è la parte economica che secondo noi è fondamentale a partire dal piano manifattura 2030. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cormons si appresta a dare l'ultimo saluto alle due vittime della frana avvenuta nella notte del 17 novembre, Guerin Shkozai di 83 anni e Kvirin Kunhert di 32 anni. Kunhert, che era già uscito dalla sua abitazione e si era accorto della pericolosità della situazione, ha tentato con un terzo vicino di salvare anche l'anziana raggiungendo il suo appartamento con una scala, ma mentre teneva la scala la colata del fango l'ha travolto. Il funerale nel l'uomo di Sant'Adalberto si terrà alle 14.30. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. È una giornata di lutto per Cormons, in particolare per la comunità di Brazzano. Oggi i funerali di Kvirin Anatol Kunhert di 32 anni e Guerin Shkozai di 83 sono le due vittime della frana di una collina che la mattina, nelle prime ore del 17 novembre, ha travolto 4 case, tra cui quella della signora Guerrina. Il crollo nel momento in cui Kvirin e un enologo che vive nella zona stavano eroicamente tentando di salvare l'anziana signora. L'enologo è stato estratto subito dalle macerie ed è sopravvissuto pur riportando ferite serie. Nulla da fare per Kvirin e Guerrina, i cui corpi senza vita sono stati rinvenuti dai vigili del fuoco dopo un'intera giornata di ricerche. Alle esequie parteciperà il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, insieme a lui l'assessore alla protezione civile Riccardo Riccardi. Il sindaco di Cormos Roberto Feltaro ha invitato le attività a tenere le strade abbassate nel pomeriggio, ha annullato tutti gli eventi pubblici prenatalizi previsti per la giornata. Decisione analoga presa dall'assessore Riccardi a livello regionale in quella che è la giornata del volontariato. Le esequie alle 14.30 nel Duomo di Cormons a quasi un mese dalla tragedia. Il ritardo è dovuto all'esecuzione dell'autopsia chiesta dalla procura di Gorizia, contestualmente all'apertura di un'inchiesta senza indagati che vede diverse ipotesi di reato, tra cui l'omicidio colposo plurimo. Il fatto ha provocato una grande commozione non solo in Friuli, proprio per l'altruismo dimostrato da Quirin, che dalla Baviera si era stabilito a Brazzano insieme alla compagna Jessica e aveva aperto un negozio di alimentari. Era amatissimo dalla comunità e anche dalla signora Guerrini, la sua vicina di casa, di cui la decisione delle famiglie di tenere un funerale congiunto. Ieri sera una veglia di preghiera, l'esposizione dei feretri in Duomo va avanti dalle 10 con un viavai di persone commosse. Al termine della cerimonia, un momento di raccoglimento in canonica, entrambi i corpi saranno cremati. Intanto proseguono anche oggi i lavori di messa in sicurezza della frana, dove una manciata di case resta in zona rossa con tempi di ritorno che si prevedono lunghi. Cormons, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Per l'acquisizione dell'ospedale di Spilimbergo, un'impresa privata operante nel settore sanitario ha manifestato formale interesse, proponendo un investimento di 30 milioni di euro destinati alla ristrutturazione integrale dell'edificio. A specificarlo il direttore dell'ASFO, Tonutti, incontrando le segreterie di UIL, funzione pubblica, Nursint e CISL, funzione pubblica. Secondo quanto riferito nei piani dell'investitore, c'è la realizzazione di ambulatori chirurgici, il potenziamento delle attività mediche, lo sviluppo dei servizi di riabilitazione, ortopedia e lungodegenza. Il direttore generale di ASFO Tonutti ha precisato che nei primi mesi del 2026 dovrebbe avviarsi una fase di valutazione tecnica, giuridica ed economica finalizzata a verificare la praticabilità dell'operazione. Qualora l'analisi non rilevasse criticità sul piano normativo o amministrativo, il parere finale verrebbe sottoposto al direttore generale. Successivamente la questione approderebbe al Consiglio regionale, chiamato eventualmente a deliberare l'indizione di una gara europea. Tale percorso, ove avviato, comporterebbe tempi molto lunghi, nell'ordine di diversi anni. Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità di tutelare il personale e garantire massima trasparenza sull'evoluzione del progetto, chiedendo aggiornamenti puntuali su ogni fase del procedimento. A tal fine è stato concordato con ASFO un tavolo di confronto quadrimestrale. A Udine la direzione del Gervasut ha organizzato una mattinata aperta a tutti e dedicata alle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura sanitaria, un modo per conoscere meglio il fondamentale supporto che le associazioni forniscono nel percorso riabilitativo dei pazienti. Un supporto fondamentale non solo nella fase di cura, ma anche in quella della riabilitazione e, nei casi di una patologia con impatti invalidanti, nell'affrontare una nuova dimensione di vita che prevede la convivenza con la malattia. È quello che offrono le associazioni di volontariato presenti nelle strutture sanitarie della provincia di Udine e in particolare all'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta, che ha organizzato un open day per conoscere meglio la loro attività. Lucia Lesa, direttrice dell'ospedale di Udine. L'importanza sta proprio nel fatto di creare una rete tra operatori sanitari, parenti, pazienti e associazioni di volontariato, quindi con la comunità, qualcosa che nel periodo Covid si era un po' perso per una serie di difficoltà. Nadia Martinis, dell'Associazione Volontari Ospedalieri di Udine. La nostra presenza è un momento di leggerezza nei loro pomeriggi piuttosto impegnativi, lunghi, noiosi. Questo è fondamentale, questo è proprio l'essenza del volontariato. Tra le realtà coinvolte anche il CRIBA, il Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche, che ha sede proprio al Gervasutta. Michele Franz del CRIBA. È fondamentale sicuramente agire sulla formazione dei progettisti, quindi riuscire a far comprendere quali sono le problematiche anche che le persone con fragilità affrontano nel vivere l'ambiente urbano o anche gli edifici. L'incontro è stato inoltre l'occasione per presentare anche le attività dello sportello di Udine del CRID, Centro Informativo sulle Disabilità, attivato pochi giorni fa. Aldo Galante, presidente del CRID di Udine. Ha il compito di seguire la persona nel progetto di vita che è anche inserito nella nuova legge, nel senso nelle fasi del processo di risoluzione del problema che viene presentato, che è un modo di gravare meno socialmente, di risolvere un problema, di stare meglio, di non ospedalizzarsi. Udine, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. A Spilimbergo l'ex Filanda Nuova diventerà un plesso scolastico. La giunta regionale ha autorizzato l'ente di decentramento regionale di Pordenone all'acquisto dell'immobile destinato alla realizzazione di un istituto scolastico di secondo grado. A renderlo noto l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti. Il provvedimento riguarda l'acquisizione dell'area e degli immobili dell'ex Filanda Nuova, compresi tra via Udine, via dell'Eremo e via 25 Aprile, individuati dall'EDR come idonei sulla base delle esigenze rappresentate dall'Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Il Tagliamento e della progettualità predisposta dal Comune di Spilimbergo. L'Associazione Assieme per il Tagliamento ha ricevuto le osservazioni ufficiali della Commissione europea relative alla petizione contro il progetto della Regione per il Tagliamento, che prevede una diga tra Dignano e Spilimbergo, tre casse di espansione artificiali nel comune di Varmo e una traversa in corrispondenza del ponte di Morsano. La Commissione europea ha rilevato che le valutazioni ambientali previste non risultano ancora concluse e senza queste valutazioni, dice, nessun'opera può essere autorizzata. Ricorda anche che se dalle analisi dovessero emergere effetti negativi sul sito Natura 2000, il progetto non potrà procedere automaticamente, ma bisognerà verificare se esistono altre soluzioni possibili. Il progetto può essere preso in considerazione solo quando è dimostrato che non vi sono alternative praticabili. Inoltre va ottemperata anche la direttiva europea sulle acque, che impone allo Stato di evitare il peggioramento dello stato dei fiumi, proteggerli e ripristinarli dove necessario e raggiungere entro il 2027 il buono stato ecologico e chimico. Per il porto di Monfalcone sono in arrivo due maxi gru su rotaia progettate e realizzate dalla Cimolai, che permetteranno sollevamenti fino a 1600 tonnellate. A Chioggia, nello stabilimento Cimolai, è stato sollevato il traliccio della prima delle due gru su rotaia da 800 tonnellate e 110 metri di altezza. Entro fine mese la prima gru sarà completamente assemblata ed entro la prossima primavera sarà concluso l'innalzamento e il montaggio della seconda gru. Nel corso dell'estate, infine, sono previsti due distinti imbarchi su Chiatta, uno per ciascuna delle due gru. Alle 12.42 vediamo le temperature di questa giornata che appare davvero primaverile. A Trieste 16 gradi, Udine 14, Gorizia 13 gradi e mezzo, Pordenone 13, a Piancavallo 10 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 10 gradi, Tolmezzo 7, Tarvisio 3, Sappada 0 gradi, sullo Zoncolano e sull'Ussari 6 gradi, a Grado e Lignano 11 gradi, e le previsioni ci dicono che il cielo è sereno al più poco nuvoloso, con velature, presenze di inversioni termiche, specie a fondovalle, sulle zone orientali, sul Carso soffierà Borino. Le aree interne delle montagne sono quelle meno attrattive dal punto di vista turistico e anche quelle più soggette allo spopolamento per la mancanza di servizi. Se ne discute a Pordenone, a Montagna Teatro Festival. Io con il mio gruppo ho fatto questo bread and breakfast con la possibilità di avere un percorso in bicicletta, mettendoci anche degli altri percorsi onirici e artistici. Il nostro progetto si basa sulla realizzazione di un'area per l'arrampicata in parte alla diga del Vajont. Anche insegnare alle persone cosa vuol dire vivere in montagna, sperando che qualcuno si innamori della montagna e torni a vivere in queste zone. C'è la montagna ripensata dai più giovani al centro dell'incontro al Teatro Verdi di Pordenone, Montagna Pordenonese, visioni future, promosso con Confcooperative e Università di Udine nell'ambito della rassegna multidisciplinare Montagna Teatro Festival. Giovanni Teneggi di Confcooperative. I giovani coinvolti nel progetto hanno scelto dei luoghi del territorio, ma dei luoghi anche emblematici come la diga del Vajont, piuttosto che una casa di riposo per anziani al territorio, e le hanno trasformate, ci propongono la loro trasformazione per renderle nuovamente abitabili, gioiose e attrattive, direi desiderabili, ponendoci anche delle condizioni, perché occorre una consegna. Non si riabita più le montagne per cognome o tradizione, ma per desiderio o aspirazione. Il festival intreccia musica, danza, letteratura, fotografia per creare un ponte tra pianura e terre alte. Il presidente del Teatro Verdi di Pordenone, Giovanni Lessio. Questo festival, che in 4 giorni rappresenterà spettacoli di danza, prosa, musica, poesia, ci sono laboratori anche approfondimenti scientifici, è la sintesi di tutte le attività che il teatro svolge per tutto l'anno in città e nelle nostre vallate montane. Chiusura domani con lo scrittore Enrico Brizzi e le sue lezioni di cammino, e in serata lo spettacolo Lunga vita agli alberi di e con Stefano Mancuso e Giovanni Storti, regia di Arturo Brachetti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La videosorveglianza dei luoghi pubblici è sempre più frequentemente connessa con le macchine addestrate a riconoscere determinati dati per identificare comportamenti sospetti. A Lignano, con un progetto dell'Università di Udine, si insegnerà alle videocamere a segnalare comportamenti anomali quali scippi o risse. Dalla prossima stagione balneare, a Lignano Pineta un software collegato a telecamere sarà in grado di analizzare movimenti anomali, riconoscere situazioni di pericolo e segnalarle in tempo reale. Per mesi un supercomputer di Udine è stato addestrato con centinaia di migliaia di immagini e filmati a riconoscere risse, scippi, aggressioni, colluttazioni, fino anche a malori improvvisi o liti in un parcheggio. Il software sarà collegato a telecamere che faranno da occhi elettronici, installati in un'area particolarmente frequentata anche di notte. Le tecniche di computer vision sono in grado di analizzare il flusso video, trasmesso via fibra ottica, e identificare variazioni di frequenza e accelerazione di alcune parti del corpo, come braccia e gambe. Da semplici parametri di movimento si possono identificare aggressioni, così da generare allarmi tempestivi. Le telecamere saranno configurate nel rispetto della privacy. Gianluca Foresti, professore di cybersicurezza dell'Università di Udine. Nello sviluppo del software noi abbiamo tenuto in considerazione due aspetti molto importanti. Il primo, che non vengano effettuate registrazioni e quindi il software deve funzionare in tempo reale direttamente dal flusso video. Il secondo aspetto che abbiamo considerato è che la distanza tra l'inquadratura, quindi tra la telecamera e la scena che viene ripresa, sia sufficientemente grande, in modo tale da non avere nessuna possibilità di fare identificazione dei volti delle persone. Il progetto di ricerca vede coinvolti la società Lignano Pineta e l'Università di Udine in risposta ad un bando del centro di competenza dell'Università di Padova. Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta. Nella scelta di una vacanza un fattore fondamentale è la sicurezza, e crediamo che questo progetto possa aiutare i vacanzieri a scegliere Lignano proprio per questo. La sperimentazione ha già destato l'interesse delle forze dell'ordine e potrà rappresentare un modello replicabile anche in altre destinazioni regionali e nazionali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Comitato Pro Palestina di Udine ha promosso una manifestazione in piazza Matteotti, in programmazione questa sera, per esprimere solidarietà al popolo palestinese e per denunciare l'inerzia dei governi occidentali, come si legge nel comunicato stampa. Il Comitato evidenzia poi che dall'11 ottobre, primo giorno di tregua, almeno 367 palestinesi sono stati uccisi nei continui e ripetuti attacchi israeliani a Gaza. In Cisgiordania poi si fa sempre più violenta la politica di accerchiamento e strangolamento delle comunità palestinesi. L'esercito israeliano, si legge ancora nel comunicato, arriva con elicotteri, uomini e mezzi nelle varie città, imponendo assedi, blocchi, impedendo l'accesso a scuole e ospedali, oltre a ricorrere al rapimento per decine di persone, all'incarcerazione senza capi di accusa e distruggendo impianti idrici e fognari con i bulldozer. Tutto ciò, conclude il comitato, con la palese complicità dei governi occidentali. Per questo è proposto il boicottaggio come pratica attiva. Una rete che riunisce enti e organizzazioni che si occupano delle cure sanitarie e delle politiche per le famiglie è in visita in regione per conoscere l'esperienza del Centro per la Salute delle Bambine. Hanno visitato la terapia intensiva neonatale di Udine e di Trieste, passando anche per il Villaggio per Crescere, uno spazio educativo dove le famiglie con i bambini dai 0 ai 6 anni possono imparare a trascorrere insieme del tempo di qualità. Accompagnati dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini di Trieste, 12 esperti provenienti da Polonia, Bulgaria e Belgio, operanti nel settore delle cure sanitarie e delle politiche per le famiglie, hanno voluto conoscere le esperienze del CSB e i programmi che promuovono il coinvolgimento dei padri già a partire dalle cure perinatali, come ci ha spiegato il presidente del CSB Giorgio Tamburlini. Coinvolgimento affettivo, empatico, e che consente ai padri quell'attaccamento che poi produce molti benefici sia sui bambini sia sulla coppia ovviamente che sui padri stessi, e di questo abbiamo preso una serie di esempi a partire proprio dal periodo perinatale. La delegazione fa parte di COFACE, Families Europe, una rete che rappresenta milioni di famiglie, volontari e professionisti e promuove politiche sociali che tengano conto delle esigenze delle famiglie e garantiscono pari opportunità a tutti. Rafael Zadikovic è un ginecologo di Varsavia e ci racconta che è stato colpito dal fatto che all'ospedale Burlo, nel percorso della nascita e della cura, vengono coinvolti da subito i padri e anche i familiari. Da noi non è così, ci spiega, anche se gli standard clinici, sempre da noi, sono molto alti. Abbiamo tante cose in comune, ci racconta invece Maria Petkova, che dice che anche in Bulgaria esiste un centro simile al Villaggio per Crescere, dove i genitori giovani e anche i padri leggono insieme i libri e questo porta a sviluppare una buona comunicazione e a rafforzare la relazione. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone, in occasione della processione religiosa per il pellegrinaggio giubilare sul segno di speranza della pace oggi in calendario, il Comune ha stabilito modifiche alla viabilità, in particolare dalle 16 fino al termine del corteo è prevista la sospensione temporanea della circolazione da Piazzetta Cavour, proseguendo per Viale Martelli, Via della Motta e Corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere le 18 circa la loggia del municipio, dove si svolgerà un momento di preghiera. Una notizia di sport, Pallacanestro Trieste alle 18:15, al Palla Rubini affronta una Hotels di Reggio Emilia, squadra penultima in classifica, una partita alla quale la squadra di Gonzales si presenta al completo con Ross e Brooks. E il coach triestino avverte, Reggio è una squadra decisamente migliore di quanto non lo dica la carta. È un gruppo ben allenato, ha preso tante partite con scarti minimi, un gruppo con tanta qualità. All'inizio hanno sofferto gli infortuni. Udine gioca invece domani alle 12 in trasferta a Trapani. Domani, dopo il giornale radio delle 8:30, andrà in onda la rubrica Vita nei campi. Sentiamo i temi in scaletta. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani racconta il progetto di forest sharing del Consorzio Boschi Carnici, selezionato dalla Regione per un concorso nazionale. A seguire la zuppa invernale, nel racconto di Angelo Floramo, l'odore caldo, segno di riconoscimento di ogni famiglia. Scegliere la copertura delle piccole serre domestiche, dal polietilene al vetro. Porter e Stout, le birre che parlano inglese, stili affascinanti e una storia che inizia nei pub londinesi. E ancora una prova di artigianato gastronomico, preparare in casa il cremoso al caffè, regalo facile per le feste. Come sarà il florovivaismo tra 10 anni? Molto diverso da oggi, tra mutamenti tecnici e di mercato. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR, Friuli Venezia Giulia. E su Rai 3 domani va in onda la rubrica Est Ovest. Lavorare 13 ore al giorno. In Grecia il governo conservatore ha approvato la riforma che consente di aumentare l'orario di lavoro. Una coppia di blogger bielorussi dall'esilio in Lituania lotta contro la dittatura di Lukashenko per affermare i principi della democrazia. Una scuola di modelle e modelli a Bucarest insegna a muoversi sulle passerelle, ma anche a presentarsi e ad affermarsi sul lavoro. Le porcellane di Erend, una manifattura ungherese con pezzi dipinti a mano da più di 2 secoli, simbolo dell'eleganza mitteleuropea. Il breviario mediterraneo, attualizzato dal Teatro Gavella di Zagabria, in un incrocio di radio e musica. Tutto questo è Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E ancora un paio di appuntamenti di oggi, rappresentano vedute marine di Trieste e Venezia, per la maggior parte inedite e realizzate su tela negli ultimi 2 anni, le opere allestite nella mostra Fabio Colussi, Orizzonti di Luce, curata da Marianna Cerboni, e in inaugurazione a Trieste, alla Sala Xenia della Comunità Greco Orientale, in riva 3 novembre alle 18:30, ingresso fino al 19 gennaio. Auguri di Natale in musica per l'appuntamento conclusivo di Cromatismi 4.0 con il concerto del coro Vicra della Glasbena Matizza di Trieste, organizzato dall'associazione Chamber Music al Savoia Palace Hotel alle 18. E con questo chiudiamo il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.